Essere e benessere di Nicoletta Carbone. E voilà, eccoci qua, sono le 11.09 con Pietro Lacorti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Vi do subito il nostro numero verde 800 24 0024 con l'invito che, se uno dei temi che tratteremo oggi è di vostri interessi, di chiamare subito, perché molti ascoltatori poi chiamano quasi alla fine e noi non riusciamo mai a dare voce a tutti. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Insomma, come si dice, mi sono portata avanti, attivatevi e ascoltate con noi i temi del giorno. Mamma, come nascono i bambini? Prevenzione in musica. La parola al Nobel Luc Montagnier. Giornata mondiale dedicata all'osteoporosi. Oggi è martedì. Di solito le mamme vengono da noi il secondo martedì del mese, ma dato che l'altro martedì abbiamo lanciato un'iniziativa dei medici cantanti, influenzate la canto e gliele suono, le abbiamo slittate ad oggi. E saluto subito Yolanda, che è venuta a trovarci. Ciao Yolanda. Veronica, scusami. Buongiorno a tutti. Ciao, perché Yolanda e Veronica vivono praticamente siamo gemelle. In coppia e sono abbastanza diverse, ma sono come Bibi e Bibò. E dato che adesso però sei sola, perché è arrivata, perché si era persa nella metropolitana di Milano. E allora io, vedendone uno, le associo all'altra. Invece non sbaglio il nome di Alberto Pellai. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto Pellai oggi è qui perché con le mamme di oggi parleremo di un tema su cui Alberto Pellai ha lavorato tantissimo all'università, scrivendo libri, facendo incontri, convegni, cerchi del papà, che è l'educazione sessuale dei nostri bambini, giusto? Sì, direi un tema che è una sfida per tutti noi genitori. Quando io ci lavoro con le mamme e papà, che ho il privilegio di incontrare molto di frequente, proprio la mia prima domanda è: che ricordo avete voi dell'educazione sessuale o affettiva che avete ricevuto quando eravate bambini? E è incredibile raccogliere la risposta, perché siamo proprio allo zero assoluto, cioè quasi tutti ti dicono: ma la mia mamma e il mio papà mi hanno detto poco o niente. E direi di partire proprio da qui nelle riflessioni che faremo oggi, perché se tu non hai vissuto quell'esperienza quando eri bambino, non hai una memoria e un ricordo, questo rende molto difficile poi poter agire la stessa funzione con i tuoi figli quando diventi genitore, perché devi inventare tutto da capo, tutto un percorso, e quindi devi andartele un po' anche a cercare risorse e competenze. Quindi una domanda secca che facciamo agli ascoltatori che hanno figli dell'età di cui ci occupiamo oggi, che sono dai 2 ai... Non portiamo limiti. Ma magari teniamo come idea tutta la scuola primaria, la scuola elementare, perché poi quando si entra in preadolescenza scattano, c'è tutta un'ulteriore... Anche perché dall'adolescenza ci occupiamo con questa casa, non è un albergo. E quindi poi li porteremo là. Intanto saluto la verissima Yolanda, che è venuta. Grazie, è arrivata. Buongiorno. E io avevo salutato Veronica con Yolanda dicendo che vedendovi sempre in coppia vi... E poi insomma anche per... Domani tra l'altro parliamo di memoria e quindi imparerò tante cose. Allora, come ve la cavate voi come mamme? Ma come me la cavo? Spero bene. Noi abbiamo un approccio molto tranquillo anche alla fisicità con i nostri figli. Io penso che questa cosa influisca nella loro percezione della sessualità, quella che non si spiega a parole ma si spiega nei gesti. Io spero che i miei figli vedano un buon clima affettivo tra la mamma e il papà, che quindi li rilassi nei confronti dei sentimenti tra i due sessi, ecco, più prima ancora della fatidica domanda, ecco. E poi io amo molto il loro corpo, faccio molte carezze, molte coccole, non abbiamo tabù fisici, mi vedono in situazioni intime, eccetera, così, per cui io penso che tutto questo possa predisporli ad avere un rapporto sereno con la loro sessualità. Yolanda? Io comincio a avere i primi problemi con le prime domande, perché avendo una bambina intorno ai 10 anni e quell'altro di 8, le domande fatidiche cominciano ad arrivare. E giustamente, come diceva prima il dottor Pellai, non avendo avuto io un'esperienza con i miei genitori, perché non mi hanno mai detto niente, le conoscenze le abbiamo avute dalla compagnetta a scuola, dalla sorella più grande, è vero, quelle ma classiche cose lì. Così indietro, io non noi. Lo so, non lo so. Alberto, però... eppure non ne sentivamo quasi, non se ne sentivamo il bisogno, forse. Ma in realtà, guarda, il mondo non è cambiato, perché quasi tutte le indagini che hanno chiesto agli attuali preadolescenti e adolescenti di verificare quali sono le loro principali fonti di educazione sessuale, hanno ottenuto come risposta che gli amici, esatto, e i mass media sono al primo posto, i genitori sono all'ultimo posto, quindi... mi sa che c'è una sorta di filo rosso che lega le vecchie generazioni con le nuove. E insomma, i grandi hanno ancora qualche difficoltà? Sì, anche se sono davvero in questo momento gli attori protagonisti di un cambiamento molto possibile, direi anche molto necessario, che davvero serve ai nostri figli. E devono però trovare la strada. Certo. Perché i modelli non ci sono, e alcuni magari le hanno, ma un pochino più sfocati, penso magari ai genitori più giovani, le mamme qua sono giovani, ma ci sono genitori ancora più giovani, e quindi insomma un po' ci mettiamo tante volte di fronte ad un bambino che ci fa una domanda e tante volte non sappiamo rispondere, insomma i grandi sono in difficoltà. Anche i grandi hanno difficoltà a spiegare qualcosa che un bimbo non sa. Non è così facile riuscire a trovare le parole giuste per poter spiegare. Allora insieme possiamo cercare il modo più adatto per conversare. E al posto del silenzio, così ci sarà, un bel discorso con mamma e papà. Questa filastrocca è tratta da un libro appena pubblicato da Alberto Pellai e Barbara Calaba, che vi consiglio. Il titolo è centratissimo. Come avete fatto? Ve lo dico. Col cavolo la cicogna. Si legge così? Si legge proprio così, col punto esclamativo in fondo, perché c'è dentro una verità, insomma, che non è più tempo di cavoli e cicogne, e direi ci aiuta proprio il titolo anche a dare la prima regola importante per l'educazione sessuale dei nostri figli, cioè serve la verità, sempre e comunque. Qualsiasi cosa raccontiamo ai nostri figli, dovremo probabilmente trovare le parole giuste, adatte, adeguate al loro livello di sviluppo, ma mai bugie. Quindi basta con cavoli e cicogne, perciò col cavolo la cicogna. Col cavolo la cicogna, sei d'accordo, Yolanda? Assolutamente sì. E allora, il libro è appena uscito, quindi non l'ho ancora letto, però mi ricordo una canzone scritta anni fa da Sergio Endrigo, che batteva proprio su questo chiodo, cioè diceva: mi ha fatto la mia mamma e devo essere contento, cioè non ascoltare quello che dicono, c'è gente che dice che una cosa. Ho recuperato Sergio Endrigo, esatto, che quando noi eravamo piccole ci sembrava una non lo amavamo molto, invece a distanza di tempo era avantissimo. Esatto, Alberto, esatto, sì, assolutamente sì. Sì. Pensa che io ho proprio comprato da poco un doppio CD con le canzoni di Sergio Endrigo, le trovo si riscoprono anche per i miei bambini. Allora, 800 24 00 024, educazione sessuale, quando si comincia? Bisogna sempre dire la verità. Questa risposta Alberto ha già risposto, ma comunque confrontiamoci. E ci sono delle domande che vi mettono in difficoltà? Siete riusciti in qualche modo a trovare, state cercando un linguaggio per parlare ai vostri figli? 800 24 00 024, noi siamo qui. 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso è arrivato il momento di farci una bella cantata. Parliamo di Influenza A, te la canto e gliele suono, l'iniziativa che, vi ricordate, abbiamo lanciato martedì scorso e che, devo dire, grazie a tutti voi sta correndo di bocca in bocca. Ma freno le parole, do voce ai nostri medici che sono scesi in campo per insegnare la prevenzione cantando e che oggi saranno ascoltati e commentati da un ospite d'eccezione, il premio Nobel per la medicina 2008, professor Luc Montagnier, che è qui in studio con me. Professore, grazie, che onore, benvenuto. Buongiorno. Allora, adesso andiamo, siamo pronti per sentire le nostre canzoni. H1N1, con l'aereo e con il treno, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Uno. Lavati le mani anche molte volte al giorno. Due. Usa il fazzoletto per tossire e starnutire. Tre. Se ti fa mal la gola, evita lavoro e scuola. Quattro. Evita gli sbalzi di temperatura. La mia scuola resta sempre scienza, l'antipatica influenza ed un pugno al virus do, grazie a quello che io so, al virus un pugno io do, grazie a quello che io so. Con buon senso, educazione, ne ridurremo la diffusione. Davanti al naso e il fazzoletto, le mani sotto il rubinetto. Professor Montagnier, con lei la nostra iniziativa devo proprio dire che sale nell'Olimpo. A me vengono quasi le vertigini a pensarci, ma approfitto subito di lei e le chiedo quale delle tre canzoni le è piaciuta di più. Mi sono piaciute tutte e tre. Probabilmente sono rivolte a un pubblico di età diversa, ma comunque trasmettono tutte lo stesso importante messaggio. Sì, insistiamo sul messaggio di prevenzione. A questo proposito leggevo proprio una sua dichiarazione in cui per l'influenza A diceva nessun panico, ma molta prevenzione. È un virus molto contagioso che si trasmette attraverso le vie aeree. Ed è corretto dire di indossare la mascherina, di utilizzare il fazzoletto quando si starnutisce e di lavare frequentemente le mani. Direi anche di evitare di sputare per terra. E poi bisogna gettare il mozzicone di sigaretta in un posacenere e salivare il più possibile, perché la saliva protegge le nostre mucose dall'ingresso del virus. La prevenzione in musica, professor Montagnier, è una nuova forma di comunicazione per vincere il timore nei confronti di questo virus e soprattutto insegnare che con il buon senso e semplici, proprio dico semplici, regole di igiene, ciascuno di noi può fare tanto. Penso che sia molto utile dare degli avvisi in musica a favore della prevenzione, soprattutto per raggiungere i bambini. Ed è molto importante che siano i bambini, fin da piccoli, a preoccuparsi della loro igiene. Prima della guerra, ad esempio, avevamo la tubercolosi e le uniche precauzioni che potevamo insegnare alla gente erano precauzioni di igiene, perché non c'erano farmaci. Professore, lei si vaccinerà? No, perché io non faccio parte della popolazione prioritaria a cui il vaccino è indirizzato. Soprattutto la vaccinazione è indicata per i bambini che non hanno memoria immunitaria. Ma sicuramente seguo le precauzioni igieniche di prevenzione, anche se non sono una categoria a rischio. Professor Montagnier, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata, è un onore averla avuta ai nostri microfoni qui in studio. Merci. Buona giornata. Allora, medici, cercate musicisti, musicisti, alleatevi con i medici per fare tutti insieme una canzone che parla di prevenzione. Ho fatto anche la rima. Potete andare per saperne di più sul sito di Radio 24, dove trovate anche il regolamento. Naturalmente, anche se non siete medici, anche se non siete cantanti o musicisti, potete come sempre esprimere la vostra preferenza andando sul sito di Radio 24, vi ascoltate le canzoni e esprimete quella che a voi piace di più, arriva di più. Allora ringrazio tutti i nostri ascoltatori che hanno votato questa iniziativa. Al momento quella che più ha raggiunto il cuore della prevenzione sembra essere quella di Andrea Vitale insieme ai Salute Umana, ma come sempre il gioco è aperto. Nel chi sale chi scende dell'Hit Parade della prevenzione vi daremo aggiornamenti costanti durante la nostra trasmissione o comunque potete visualizzarle sul sito di Radio 24. Pronto soccorso. Beh, non è da poco, eh? Un Nobel che commenta la nostra iniziativa. Ma noi torniamo alle nostre mamme, ma abbiamo in linea, immagino, un papà. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Cosa ci raccontiamo, Giancarlo? Ci raccontiamo che mi ritrovo molto in quello che dicevate prima, diceva il dottor Pellai, in questa domanda che forse lui nei suoi corsi fa spesso ai genitori. Quella di porre la stessa domanda riguardo all'educazione sessuale. Sì. Ho 37 anni, ho tre figli, e tutti che malgrado mi ritenga assolutamente al passo con i tempi, alle prime domande dei miei figli riguardo all'educazione sessuale siamo rimasti un po' così. Sì. Nel senso che non c'era un'abitudine mia a portarmi a una situazione di questo genere. Qual è una domanda in particolare, Giancarlo, che l'ha messa un po' in difficoltà? Ma la classica, dal come nascono i bambini, posta in diversi modi dai miei figli. Ognuno dei miei figli ha un carattere un po' diverso e quindi ciascuno l'ha posta un po' a suo modo, però dal quello alle differenze tra il maschio e la femmina, al fatto di rapportarmi poi a una risposta che potesse essere soddisfacente per loro e non imbarazzante per me. Ecco, questo è stato un po' il primo approccio, quello di sentirmi quasi imbarazzato, proprio perché forse non pronto, non abituato a rapportarmi in questo senso, nessuno l'ha fatto con me, quindi... Certo, non abbiamo dei punti di riferimento. Che cosa fai qui? Faccio il dottore per le donne. Cioè, che gli fai? Ecco, io faccio nascere i loro bambini. Li fai nascere? Quando una donna ha tenuto il bambino dentro di sé per tanti giorni, io vado da lei e l'aiuto a tirarlo fuori. Non è vero, dottore, mi prendi in giro. Lo sanno tutti che è la cicogna a portare i bambini. E chi te l'ha detto? Papino. Ok, dunque, la cicogna mette il bambino all'interno della mamma. No, non sai niente. La cicogna porta il bambino dentro l'ospedale e poi lo lascia in un passeggino. Giancarlo, volevo regalarle questo estratto dalla sitcom Robinson, che è molto carina, eh? C'è questa bambinetta che ne sa di più, che è attaccata all'idea della cicogna. E Alberto, intanto che diamo, dai tu, io non mi permetto, una mano a Giancarlo. E tante volte se i bambini iniziano ad avere delle idee sulla cicogna, sul cavolo, poi quando scoprono la verità, quando anche racconti la nuova versione, quindi la realtà, un po' ci rimangono male. Ma credo che tutti ci rimarremo male nello scoprire una bugia così grande intorno a un tema così importante. E i genitori devono anche considerare che tutte le volte che noi raccontiamo bugie nell'area dell'educazione sessuale, stiamo mandando anche un secondo messaggio ai nostri figli, cioè intorno a questo tema io non ho tanta voglia di dirti la verità, è meglio che non interpelli me per saperne di più su quest'area. E conseguentemente quello che poi succede è che tra i 10 e i 14 anni, quando invece le domande sono tante, presenti proprio nella mente di tutti i ragazzini, perché è proprio la crescita che accende le domande, un genitore non è più un interlocutore privilegiato perché è già stato molto deludente. Molto interessante, tra l'altro, sentire anche dentro i Robinson che, mentre gli adulti sono abbastanza bravi a spiegare come escono i bambini, quasi nessuno è capace di dire come sono entrati, perché proprio una bambina ha scritto in un suo tema una volta. Insomma, tutti ti riescono a spiegare come i bambini escono, ma nessuno riesce a dirci come sono entrati dentro la pancia. Giancarlo da Milano, ho ancora bisogno di un aiuto, immagino, che possono naturalmente darlo anche le nostre Yolanda Veronica, Veronica Yolanda. Giancarlo, quindi lei adesso, ti faccio una domanda secca, lei oggi va a casa e se suo figlio le chiede come nascono i bambini, dove entrano dentro la pancia, Alberto Pellai suggerisce di? Io, sai che cosa facciamo? Perché vedo che siamo quasi, direi i nostri ascoltatori, intanto provate a chiamarci e a dire voi che cosa avete fatto con i vostri figli. Io, se sei d'accordo, Nicoletta, più o meno in zona fine trasmissione, provo a darti un esempio concreto di buona risposta e buona narrazione, sì, che potrebbe servire ad una mamma e un papà per raccontare ai propri figli come nascono i bambini. Questo dicendo tutta la verità. Le mie amiche Yolanda Veronica? Assolutamente sì, perché appunto volevo appunto fare il mio commento, ma poi mi ha preceduto il dottor Pellai, perché io, fin quando la mia bambina mi ha chiesto come nascono i bambini, via, alla grande, sono stata liscia, le ho raccontato un sacco di cose, per carità, niente cicogne e cavoli, ma sono stata onesta. Poi alla domanda diretta, ma come ci entrano, ecco lì, hai traballato, sono rimasto, esatto, traballato parecchio. Vero tu? Ma io, scusate, volevo dire semplicemente due cose, ricollegandomi a quello che... Veloci, perché ci abbiamo i mercati che... Sì, Alberto Pellai, giustamente lui dice, se non parliamo delle cose diamo anche un'aura di vergogna all'argomento sessuale, che è sbagliata, lo sappiamo tutti. Sì. Quindi, secondariamente, quando me lo chiedono, fanno le loro mezze domande, io preferisco dire il papà e la mamma si vogliono bene e poi fare magari una risposta, dare una risposta più tecnica, perché secondo me è più carino e più istruttivo che passi il passaggio che il papà e la mamma si amano e quindi desiderano avere figli e poi tecnicamente ti spiego come avviene, almeno questa è una mia opzione. Va bene, intanto pensateci, mettetevi al lavoro, avete accolto, se vi piace, la proposta di Alberto Pellai, proviamo a vedere come lo racconteremo ai nostri figli, anche un confronto come ci è stato raccontato, se ci è stato raccontato. Siamo tornati oggi nell'appuntamento mensile dedicato alle mamme. Questa, per questo mese facciamo un'eccezione, ci troviamo al terzo martedì, ma in realtà l'appuntamento rimane fisso al secondo martedì del mese con un tema scelto dalle mamme che possono votare sul sito blogmamma.it su una rosa di temi e oggi parliamo di educazione sessuale, devo dire un tema super gettonato, e lo facciamo con Alberto Pellai, ma voglio dare subito voce ai nostri ascoltatori. Antonio dalla provincia di Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono papà e da poco tempo anche nonno, quindi veramente? Posso può raccontare, quindi è un super esperto. Esperienze, sì. Allora, la mia esperienza personale da bambino, da ragazzino, è stato che i miei genitori con me sono stati sempre molto sinceri. Sì. E quindi fin dall'inizio io ho saputo che le cicogne erano buone per le barzellette, sì, ma che i bambini nascevano perché il papà e la mamma si volevano bene. Antonio, che età abbiamo quando abbiamo detto che quando abbiamo siamo capito? Sulle elementari. Va bene, ma tanto poi, per avere un... Quando siamo stati in fase preadolescenziale, un giorno mio papà mi ha preso da parte a quattro occhi, da uomo a uomo? Importanza, esatto, una certa importanza alla cosa, e mi ha spiegato non solo come nascono, ma appunto soprattutto chi ce li mette dentro e sì, come. E lei era già abbastanza preparato, Antonio, o è stata una scoperta? È stata una scoperta, quindi la mia esperienza è stata che mio papà mi ha un po' anticipato, sì. Però questo è stato positivo, nel senso che appunto detto così con tranquillità, con anche dandomi importanza nel farmi questa rivelazione, no? Sì. Così, mi ha sicuramente aiutato ad affrontare la cosa più serenamente. E io aggiungo che per quel che riguarda l'esperienza poi con i miei figli, io ho figli che vanno dai 24 anni ai 9 anni, sì, e quindi ormai la cosa è stata affrontata, è stata ben collaudata, ci siamo divisi i compiti, per cui con le ragazze ha parlato mia moglie e con i ragazzi ho parlato io, però fin da bambini gli abbiamo sempre spiegato che la cosa cominciava col volersi bene del papà e della mamma, sì, e con le coccole tra il papà e la mamma, e che da questo poi nascevano i bambini con, sì, l'aiuto anche del Signore, che poi è anche vero, nel senso che poi dopo il papà e la mamma possono fare tutto quello che vogliono, ma alla fine della fiera chi li concede, secondo me, è Padre Eterno, così come ci sono tanti nostri amici che li cercano ma purtroppo non li hanno. Antonio, io la ringrazio per la sua testimonianza, per il suo racconto. Antonio, papà di bambini che vanno dai 9 ai 24 anni, quindi Alberto. Ha tanta competenza, è un bell'arco di età. È quasi un Alberto Pellai anche lui. Facciamo tesoro di molte delle cose che ci ha raccontato Antonio. Intanto questa idea molto importante che sia le femmine che i maschi hanno bisogno di educazione sessuale, questo significa sia le mamme che i papà sono i migliori educatori sessuali dei loro figli. Dico questo perché ormai è abbastanza consuetudinario in tutte le famiglie che la mamma faccia educazione sessuale con la bambina e soprattutto la prepari al menarca, cioè al primo ciclo mestruale, mentre è molto interessante notare che il 95% dei maschi arriva al proprio spermarca, cioè prima emissione di sperma per solitamente polluzione notturna o autoerotismo, senza avere mai avuto una conversazione di educazione sessuale con il proprio papà. Quindi in questo senso mi sento di dire anche attivatevi. I maschi hanno bisogno di educazione sessuale. Antonio ce l'ha proprio raccontato, come ancora vivo in lui questo ricordo di una conversazione diretta, franca, spontanea tra lui e il suo papà, anche perché se cominciate a spiegare come nascono i bambini diventate poi una fonte autorevole in tutte le conversazioni che hanno a che fare con tutti gli altri temi dell'educazione sessuale, perché la sessualità non serve solo a generare figli, significa conoscere il proprio corpo, esplorare la propria genitalità, interrogarsi su cosa ci sto a fare al mondo in relazione all'altro sesso o eventualmente al mio stesso sesso, eccetera, eccetera. Yolanda, tu come te la cavi? Vi siete divisi i compiti a casa? Ma dunque, veramente no. Però adesso che torno a casa li divideremo sicuramente dopo i consigli del dottor Pellai immediatamente. Stasera proprio. Molte coppie litigheranno perché molte mamme diranno: vedi, te ne devi occupare Brava. Tu di Tommaso, Andrea, Luca. Esatto, ecco, l'ho esatto. sentito, bisogna dividere le competenze. Ecco, lui dirà: ma tu hai più le parole. Cosa dirà? Certo, i papà lo dicono sempre, siccome tra l'altro se hanno una figlia femmina maggiore o un maschio più piccolo dicono: l'hai già fatto con la bambina, fallo anche con lui, non tu sei più brava. Non cadeteci, Carla! Lasciami anche dire che è importante farlo anche insieme, cioè restituire nelle conversazioni di educazione sessuale anche la dimensione di coppia genitoriale, sì, mamma ma e papà. Ma io voglio dire una cosa, ma di punto in bianco oppure si risponde a domanda risponde? Perché oppure adesso facciamo conto, Veronica va a casa con suo marito e stasera dicono: bambini, allora oggi la mamma è andata in radio, ha parlato, okay. Come si fa? Allora si fa che intanto l'educazione sessuale dura tutta la vita, voi state già educando alla sessualità i vostri figli nel momento stesso in cui loro nascono, entrano nella vostra casa, vedono voi che entrate e uscite dal bagno nudi, vedono voi che vi fate le coccole, che vi abbracciate, vi baciate, state proprio raccontando una dimensione affettiva della sessualità che non richiede o non comporta. Anche se uno esce con l'accappatoio, certo, però. Assolutamente. No, perché se uno chiude sempre la porta del bagno e dà il messaggio che non è possibile vedere il corpo nudo della mamma e del papà, anche questo sta lanciando un messaggio. E contemporaneamente basta guardare la pubblicità in televisione, basta guardare certo. programmi televisivi, ci sono un'infinità di riferimenti che hanno a che fare con la sessualità, col modo in cui gli uomini si relazionano con le donne e viceversa, e che sono strumento automatico di educazione sessuale. Lasciatemi salutare Carla da Milano che facciamo accomodare. Carla, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Carla, c'è una battuta di Yolanda e poi do subito la parola a lei. Vorrei dire, proprio dopo l'ultima affermazione del dottor Pellai, che è vero che la pubblicità e i media danno dei messaggi che alle volte non sono sempre, cioè quantomeno io non li condivido sempre, per certo. cui questo potrebbe essere un argomento anche interessante. Mettiamolo sì. sul blog, mamma. Carla, eccoci. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie per aver chiamato. Ci racconti? Sì, allora una domanda, non so se è in tema, allora, cioè, vabbè, io ho una bambina di quasi 4 anni. Sì. Naturalmente non mi ha ancora fatto delle domande su come nascono i bambini, sì. perché, vabbè, ecco, ha un comportamento molto strano da 2 o 3 mesi a questa parte. Prende una bambola grossa, la mette sul letto, le va sopra e simula un rapporto. Allora io alla mia domanda che cosa stai facendo, sì. lei una volta mi ha risposto: la voglio amare. Sì. Allora io ho provato a parlare con mio marito, ho provato a parlare anche con delle mie amiche, sì. Dunque lei non ha mai visto cose così in casa, anche perché io e mio marito siamo per carattere, non siamo molto sì. affettuosi tra di noi, cioè quindi non vede cose. Una volta è venuta addirittura una bambina a sì. casa e l'ha fatto con questa bambina e la mamma ha preso la bambina e è andata via. Sì. E io non so come mi devo comportare, perché quando lei lo fa, no? Io magari è da sola in camera, io sto facendo altre cose, passo per la sua camera e lei mi dice: hai visto? Non mi guardare. Eccoci. Siamo tornati, Alberto. Allora Carla ci ha chiesto aiuto per un comportamento, per un gioco che sembra un po' inusuale per una bambina di 4 anni. Carla è ancora in linea con noi, vero? Carla? Sì, ci sono. Sì, perfetto. Sì. Allora, Alberto. Io direi che proprio quando siamo vicino ai bambini, la prima cosa che ci deve attivare è tutto ciò che non ci sembra normale, probabilmente ha dentro qualcosa che realmente normale non è. Ed effettivamente Carla ci ha descritto un gioco che non è nella normalità dei bambini di 4 anni. Quindi la domanda adesso da farsi è come è entrato questo gioco nel mondo interno della bambina e perché lo sta mettendo in atto. C'è un altro aspetto che mi sembra molto interessante è che l'aspetto per cui la bambina non riesca a fare a meno di questo gioco, non riesca a fare a meno di metterlo in atto e quindi è stata notata più e più volte giocare simulando un rapporto sessuale con la sua bambola. Allora, ci sono molte diverse possibilità che avrebbero potuto portare la bambina a fare questo. Uno può aver visto materiale pornografico in modo totalmente casuale, stando a casa di un'amica, oppure potrebbe essere stata coinvolta in questo genere di giochi da altri bambini che frequentano la scuola materna e che quindi magari quando entrano dentro alla casetta dell'asilo, quando fanno dei giochi fra di loro non visti dagli adulti, giocano con lei in questo modo. Potrebbe un gioco di questo tipo potrebbe anche proprio porci la domanda: per caso è stata a contatto con adulti che le hanno mostrato materiale non adatto alla sua età, che l'hanno coinvolta in un gioco non adatto alla sua età? Rispetto a un gioco come quello che ci ha raccontato Carla, io direi che la cosa più importante per la mamma potrebbe essere quello di sdraiarsi sul lettone insieme alla sua bambina mentre fa questo gioco e provare con domande molto molto aperte a farsi spiegare il gioco. Aiutami bene a capire che gioco stai facendo, potrei farlo anch'io, dove hai imparato a fare questo gioco, dove potrei anch'io andare a imparare a fare un gioco così, come mai facendo questo gioco, quando io ti dico magari pensane un altro, non riesci a smettere di farlo. Credo che un altro aspetto molto importante da rinforzare adesso sia quello legato alla spiegazione a un bambino proprio del concetto di confine corporale, cioè dove puoi arrivare tu nel momento in cui ti avvicini al corpo di un'altra persona, perché è importante rispettare il corpo di un'altra persona, e quale attenzione devono fare gli altri nel momento in cui si avvicinano al tuo corpo. E questa idea di educare al rispetto dei confini del corpo, potete usarla anche proprio giocando con la bambola. Se la tua bambola potesse parlarti in questo momento, cosa ti direbbe? Perché tu la obblighi a fare delle cose che magari lei non ha voglia di fare. Magari lei in questo momento con te vuole giocare a vestirsi, a cambiarsi, a pettinarsi, e tu le fai fare una cosa per cui tra due persone ci vuole sempre proprio il consenso e la voglia di starci. Andiamo rapidamente a Lorenzo da Vicenza. Lorenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Io volevo chiedere un attimino una cosa al vostro ospite. Io ho un bambino che fa la quinta elementare e proprio un mese fa stavamo facendo un testo a casa di lui doveva parlare della sua famiglia. Sì. A un certo punto si ferma e fa: io non capisco una cosa, dimmi. Ho detto: come mai? Ha detto: io assomiglio alla mamma e sono nato nella pancia della mamma, e questo lo capisco, ma mia sorella, sì, che è un anno più di lui, dico tutti quanti che assomiglia a te. Sei nata nella pancia della mamma, come fa? A te? Che carina! E lei che cosa è riuscita? Io devo ancora rispondergli a questa domanda, perché bene. Guarda, torno subito. Torno subito, vado a temperare un attimo le matite. Non capisco. Beh, ma certo che i bambini ne tirano fuori di magnifiche. Lì sì, davvero ci sarebbe da scrivere un libro con le domande dei bambini. Alberto. Allora, Lorenzo, quello che ci ha appena detto, quando rispondiamo a un bambino torno subito, dobbiamo poi davvero tornare. O subito o un po' dopo, dobbiamo sempre dare Lorenzo l'idea. Lorenzo oggi torna. Esatto, che la domanda non è mai caduta nel vuoto. Se non siamo pronti a rispondere, diciamo, devo proprio pensarci su, ma credo che entro la fine di questa settimana ti riconvoco e ti darò la risposta. Poi Lorenzo, questo è probabilmente il momento in cui suo figlio le sta facendo capire che ha davvero bisogno di sapere qualcosa di più della pancia che tiene dentro un bambino, di una mamma che fa un bambino con la pancia, cioè ha proprio bisogno di sapere che questo è il risultato della storia d'amore tra un uomo e una donna. A questo punto, Nicoletta, io provo anche a darti proprio un esempio concreto di come possiamo raccontare. Perfetto, poi vediamo bambini. Se le nostre mamme, Yolanda e Veronica, dicono che vai bene. Allora, ti metto sotto esame. Gli uomini e le donne, un uomo e la donna, la mamma e il papà, un ragazzo e una ragazza, quando si vogliono bene veramente, quando si amano davvero, sentono una strana emozione dentro di loro che li fa andare incontro l'uno all'altro e si possono raccontare il loro volersi bene in tanti modi diversi, guardandosi negli occhi, baciandosi, coccolandosi, accarezzandosi. Ci sono coccole molto speciali che solo le persone grandi possono farsi, cioè quando sono diventate grandi e responsabili, e che si possono fare abbracciandosi con tutto il corpo nudo. Il corpo nudo della mamma e il corpo nudo del papà sono diversi, il papà al pene e la mamma alla vagina, e questa diversità serve proprio a costruire un abbraccio speciale dove il corpo del papà, abbracciando il corpo della mamma, si congiunge completamente, il pene del papà entra nella vagina della mamma, e questo dà la possibilità, se vogliono fare un bambino, di lasciare proprio il seme del papà dentro al corpo della mamma, dove c'è un ovulo, la cui unione seme e corpo costruiranno un nuovo bambino. Ecco perché un bambino può assomigliare alla mamma, un bambino può assomigliare al papà, perché ci sono tracce diverse di entrambi i genitori nella cellula primordiale da cui tutti noi veniamo al mondo. Cosa ne dite? Promosso. Promosso, non siate così subito. Promosso, no, ma oltretutto è anche un po' copione, perché insomma io mi sarei sentita di dire cose molto simili, magari non con la sua capacità dialogica, eccetera, eccetera. Infatti questa cosa del sei fatto di un pezzettino di mamma, di un pezzettino di papà, è una frase che io sto preparando e arrotando per quando sarà il momento, perché mi sembra bella, tecnica e anche romantica, cioè per non togliere quell'aura di mistero che un po' ci vuole per non svilire l'argomento e accompagnare i bambini in una scoperta che non sia un'imposizione delle cose, no? Ma uno scoprire piano piano come nascono i bambini, per i bimbi più piccoli, certo. Naturalmente. Yolanda? Sì, anch'io ero fino all'uovo e il semino ero arrivata anch'io, ecco, nella parte più tecnica proprio, ancora non mi ero spinta, ma credo che sarà da seguire questa strada oramai sui 10 anni. Alberto. Cioè, di nuovo, magari è importante per voi genitori all'ascolto provare a capire che emozione provate nel momento in cui sentite raccontare una cosa di questo tipo. Non dimenticate mai che si può spiegare il sesso in modo molto asettico, ma si può spiegare anche l'idea di fare l'amore, che è una parola bellissima, e per ogni bambino scoprire che lui è il risultato di una mamma e di un papà che fanno amano. L'amore è una storia meravigliosa che li lascerà con la bocca spalancata. Allora, se avete bisogno di scriverci, se volete raccontarci, se avete insomma bisogno di un aiuto, di un confronto, potete scriverci a esserebenessere@radio24.it e noi ci avvaleremo della consulenza del professor Alberto Pellai, perché è pure professore oltre che psicoterapeuta. Però io vi volevo ricordare che oggi è la giornata, sì, saluto, mi fa Pietro la corte di salutare, è la giornata mondiale dedicata all'osteoporosi. Sul nostro sito abbiamo un'intervista della professoressa Maria Luisa Brandi, che si occupa proprio di metabolismo osseo, quindi se siete interessate andate ad ascoltarla, se no noi ci sentiamo domani come sempre dopo il GR delle 11 dagli studi di Roma. Domani vado a Roma e poi vi racconterò come si sta da quegli studi. Intanto, mammette mie, noi ci vediamo il secondo martedì del mese con i nuovi temi. Le mamme all'ascolto vanno a votare su Blog Mamma. Vi devo salutare perché se no mi tolgono la linea. Grazie a voi, grazie ad Alberto, a domani!